nazionale di affollamento pare al 54,2%. In 9 regioni italiane questo tasso di affollamento varia dal 23% e il 50%, in 10 addirittura si arriva fino all'80%. L'unica regione che non presenta, almeno solo apparentemente, una situazione sovraffollata delle carceri è il Trentino, ma il dato è inquinato per il sottoutilizzo del nuovo carcere di Trento. Capofila per sovraffollamento è la Calabria, 77,6%, poi la Puglia, Emilia Romagna, Marche, Lombardia, anche in Lombardia quasi il 66%. Dal 1 gennaio al 20 marzo del 2011 si sono verificati 14 suicidi in cella, nello stesso arco temporale 91 istituti su 205 attivi sono stati tentati 194 suicidi. Stiamo parlando di dati tremendi perché i detenuti che debbono la vita a salvataggi in estremis da parte di poliziotti assommano a 31. Un numero maggiore di tentati suicidi si è verificato a Venezia, 10 esattamente, seguita da Como, Firenze, Sollicciano e San Gimignano. In 134 istituti penitenziari si sono verificati 1025 episodi di autolesionismo. Per questo dunque abbiamo tentato oggi a Italia in Controluce di riannodare questo filo drammatico delle morte in carcere. Torneremo al di là della cronaca, come facciamo spesso, torniamo dunque su temi che certe volte appunto altri media abbandonano. Italia in Controluce era la seconda edizione, cercateci ogni giorno su Facebook, Twitter, oppure siamo anche rintracciabili via mail controluce@radio24.it. Vi saluta Daniele Biacchessi, domani 6:30 su Radio 24.